Parliamo di un importante appuntamento letterario che avrà luogo il prossimo 7 settembre. Per la prima volta a Bologna ci sarà la scrittrice femminista statunitense Dorothy Allison, che dialogherà con la scrittrice Margherita Giacobino, che abbiamo al telefono e che saluto. Ciao a tutti, voglio soltanto dirti che insieme a me a dialogare con Dorothy ci sarà anche Alessandra Sarchi, anche lei è una scrittrice italiana. Certo, e in che cosa consisterà questa chiacchierata? Che temi affronterete? Parleremo di lei, del suo lavoro di scrittrice e sicuramente dei libri che sono stati tradotti in Italia, in particolare probabilmente di La Bastarda della Carolina, che è il suo libro, diciamo, più quello che l'ha resa famosa e che è uscito, mi pare, alla fine del 2017 per Minimum Fax. Poi è uscito dopo ancora un altro libro che si chiama Due o tre cose che so di sicuro, e ben 13 anni fa ormai era uscita la raccolta di racconti trash per Il dito e la luna con la mia traduzione. Quindi in Italia adesso lei ha tre libri tradotti, non è la prima volta che viene perché nel 2006 ha fatto un lungo tour, un tour importante in Italia partendo da Torino dove è stata invitata in occasione del Pride nazionale del 2006. L'evento poi organizzato a Bologna da varie associazioni, Orlando, il Centro delle Donne, sempre perché c'è molto fermento, c'è molta attesa e per salutare e rivedere Dorothy che è una scrittrice molto amata. Possiamo dire che questo evento è di avvicinamento appunto al Sunpre Fair Cake, Sì. che è un evento femminista per la comunità lesbica molto importante. Sì, molto importante. Tra l'altro c'è anche un legame di Dorothy con il cinema perché ci sono stati tratti dei film dai suoi libri. Per esempio, Angelica Houston ha fatto anche un film tratto dalla Bastarda della Carolina. Lei ha una storia molto particolare. Ma la sua storia personale è quella che lei ha voluto riflettere nei suoi libri. Il suo lavoro di scrittura è basato proprio sul fatto di partire da elementi biografici, da dati di realtà per lavorarli a livello letterario. Quindi quello di cui parleremo è la sua fiction in quanto anche eventi della sua vita personale. Ecco, non sarà, diciamo, un'intervista basata sulla sua vita così, ma in quanto sul suo lavoro di scrittrice e quello che della sua vita reale in questo lavoro si riflette, così come viene trasformato. Questa è una delle parti più interessanti del lavoro della scrittura. Poi forse le chiederemo anche qualcosa di personale a livello di, non so, suoi pareri, opinioni, interventi su fatti di attualità. È possibile che glielo chiederemo. Certo, per esempio, se puoi anticipare qualcosa. Beh, no, no. Vengano tutti a sentire, non anticiperemo nulla. Voglio ricordare anche che sarà presente la Libreria delle Donne di Bologna con i libri dell'autrice. E ci saranno anche le vecchie edizioni, vecchie, insomma, ci sarà anche Trash, il suo primo libro pubblicato in Italia. E quindi suggerirei di affrettarsi a comprare perché non rimangono moltissime copie. È un libro bellissimo. E poi ci saranno appunto gli ultimi due tradotti da Minimum Fax. E durante l'incontro sarà possibile partecipare al crowdfunding e preacquistare gli abbonamenti per il festival Sunpre Fair Cake, che si svolgerà, ricordiamo anche questo, dal 20 al 22 settembre al nuovo Cinema Nosatella di Bologna, giusto? Sì, certo. E ricordiamo un'altra volta l'appuntamento, 7 settembre, alle ore 18 presso l'Aula Magna di Santa Cristina, in via del Piombo 5. Margherita, ti ringrazio molto. Grazie a te, grazie a Grazie. voi. Vi aspettiamo sabato.